2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 16 ottobre 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. La nostra inconfondibile sigla ci introduce in una nuova puntata che sarà disponibile, vi ricordo sempre, attraverso il nostro sistema podcast al termine della nostra trasmissione, come sempre grazie ai nostri tecnici, oggi in regia Roberto Scaltritti. Il nostro indirizzo di posta elettronica per comunicare con la nostra redazione, la nostra piccola redazione, è 2024@radio24.it, molto semplice, del resto tutti i nostri programmi hanno questo indirizzo di posta elettronica, titolo del programma @radio24.it. Vi dicevo poco fa del podcast, vi consiglio, se ancora non l'avete fatto, di abbonarvi gratuitamente, è un'operazione molto molto semplice. Se avete qualche difficoltà, perché è una nuova modalità per ascoltare la radio, scriveteci tranquillamente, vi risponderemo e vi daremo le istruzioni, ma è una modalità interessante per riascoltare i nostri programmi e anche magari ascoltarli a pezzetti, un poco ogni giorno. Abbiamo alcune notizie della settimana e poi i nostri approfondimenti. Oggi parleremo naturalmente di Windows Phone 7, ma abbiamo anche una interessante intervista dedicata ai veicoli automatici. Partiremo da una notizia della settimana, ma poi allargheremo il quadro. Vale la pena di tornare subito sui tentativi, diciamo così, che si stanno facendo in Europa per tentare di limitare il fenomeno della pirateria online. Beh, diciamo che tentativi se ne stanno facendo un po' in tutto il mondo, la materia è estremamente variegata, complicata, ricca di notizie proposte, controproposte, ma ci limitiamo all'Europa. Due notizie di questa settimana arrivano da Parigi e da Dublino. Sapete che la Francia, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, ha adottato la politica dei due avvertimenti prima dell'eventuale disconnessione dell'utenza internet dalla quale venga effettuato uno scambio illegale di contenuti protetti dal diritto d'autore, siano essi musica, film, videogames o altro tipo di programmi. Cioè, quando viene intercettato a fare uno scambio di materiale del genere, ti viene inviato un primo avviso via email e ti viene detto: attenzione, perché se continui verrai disconnesso dalla rete. La scorsa settimana abbiamo detto che l'autorità, che è stata creata, tra l'altro spendendo un sacco di soldi per controllare il traffico, sta facendo le prime segnalazioni e gli internet service provider, quindi le telecom della situazione, stanno inviando le prime email di avvertimento. Contestualmente a questa azione, il governo francese ha stanziato 25 milioni di euro, che non sono pochi soldi, di incentivi destinati a coloro che si abbonano a una piattaforma di download e streaming legali. Chi compra, nel caso specifico, una tessera prepagata da 50 euro pagherà solo 25 euro, il resto ce lo mette lo Stato. In questo modo il governo spera che gli operatori abbassino il costo degli abbonamenti e che l'uso di questi servizi, che ti permettono di scaricare e di ascoltare musica in rete in modo illimitato sulla base di un abbonamento mensile, beh, che questo tipo di abbonamenti venga sempre più utilizzato in alternativa allo scambio illegale di musica. Ma certo è, ma questo l'abbiamo detto più volte, che la musica illegale è molto flessibile anche nell'utilizzo. Posso passare il file tranquillamente senza alcun vincolo. Alcuni di questi abbonamenti, che sono disponibili anche sul territorio italiano, anche se più limitatamente rispetto ad altri paesi europei, hanno ancora molti vincoli. Magari se voglio passare una canzone su un altro computer non lo posso fare, se voglio masterizzare su un CD la canzone non lo posso fare, eccetera eccetera. L'altra notizia importante, sempre all'interno di questo capitolo, arriva dall'Irlanda, dove dalla primavera il più importante provider del paese, Aircom, forse alcuni lo ricorderanno, ha adottato la stessa politica della Francia. Qua però non è lo Stato che è intervenuto con una legge, ma una società privata, che è però la società privata più importante del settore, perché pensate che controlla il 40% degli abbonamenti ADSL irlandesi. Una decisione che è frutto di un accordo firmato con l'associazione dei discografici, che avevano trascinato l'azienda in tribunale. Adesso non stiamo a raccontare tutta la vicenda, che è lunga e complessa, quindi non è una idea che è venuta una mattina a uno dei dirigenti della Aircom, ma frutto di questa lunga trattativa. Ora, ed è notizia di questa settimana, su ricorso di un altro Internet Service Provider, arriva la decisione della Corte Suprema irlandese che dice che questa cosa non si può fare perché nel paese non c'è una legge ad hoc che lo consenta, o comunque che la legislazione del paese non consente di fare questo. Vedremo poi, naturalmente, cosa succederà in Irlanda, perché i casi sono due o forse anche più di due, o si fa una legge nella direzione che già è stata indicata da altri, comunque dalla Francia, oppure si trova una strada alternativa. E questo giusto per fare il punto della situazione con le ultime notizie sul fronte della lotta alla pirateria in Europa. L'Italia nel frattempo è alle prese con altre cose, molte altre cose, tra queste il passaggio al digitale terrestre. Allora, in vista di questo passaggio in gran parte della pianura padana, nelle prossime settimane il Ministero dello Sviluppo Economico e la Fondazione Ugo Bordoni, che ha una specifica competenza soprattutto nella comunicazione, dicevo, Ministero e Fondazione hanno lanciato una campagna informativa in molte città coinvolte dal cosiddetto switch off. Ci sarà materiale informativo, anche personale, speriamo sufficientemente addestrato e competente nello spiegare, nell'illustrare tutto questo passaggio. Anche noi la prossima settimana con il nostro esperto Gianfranco Giardina faremo una parte della puntata dedicata al tema. Questo è un processo che durerà qualche settimana fino a dicembre, quindi avremo tempo di tornare sul tema. Ricordiamo che dal 25 ottobre cominceranno a spegnersi le frequenze analogiche in Lombardia, Piemonte orientale, nelle province di Piacenza e Parma. Dal 27 novembre gradualmente toccherà al resto dell'Emilia-Romagna, al Veneto e al Friuli Venezia Giulia. Quindi avremo tempo per parlare, anche perché ci saranno, come sempre succede, molti problemi. In alcune aree del paese il digitale terrestre è già una realtà, in alcune aree dove dovrebbe essere ci sono alcune valli dove ancora le frequenze non sono state aggiornate, insomma molti problemi sulla strada di questa rivoluzione che è stata criticata in alcuni casi giustamente, ma che comunque è stata avviata e si concluderà entro il 2012. Questo è 2024, ci fermiamo per un minuto, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Tra poco parleremo di Windows Phone 7 presentato questa settimana, vi aspettiamo tra poco. Tra poco, come dicevo poco fa, ci occuperemo di Windows Phone 7, il nuovo sistema operativo per smartphone presentato all'inizio della settimana dalla Microsoft. Iniziamo però parlando dai social network e da una notizia che invece riguarda l'Italia e un po' di regioni italiane, la pubblica amministrazione. La regione Lazio, notizia di questa settimana, potremmo dire scopre l'acqua calda, ma prende una decisione sicuramente apprezzabile. È stata fatta un'indagine interna negli uffici della regione e pensate, si è scoperto che sui computer di dipendenti e dirigenti connessi ad internet ogni giorno mediamente il 70% del traffico dati riguarda Facebook o un'altra applicazione del genere. Un'altra fetta importante, il 20%, è per accedere a Messenger oppure a YouTube, quindi 70 più 20 fa 90% del traffico speso per queste applicazioni. Certo, uno potrebbe dire che ad esempio per non certo per YouTube, per Facebook o con Messenger ci si possono scambiare messaggi con altri dipendenti, ma insomma è molto discutibile che tutto questo traffico venga fatto sui social network, oppure uno potrebbe avere il dubbio che venga fatto pochissimo traffico di diverso tipo, quello legato al lavoro quotidiano, anche per una mancata alfabetizzazione tecnologica degli uffici, ma insomma sembra molto elevato un traffico del genere. E quindi la regione ha deciso di limitare l'accesso ad internet a molti servizi che non servono a nulla per il lavoro quotidiano, al di oltre 3.000 dipendenti che lavorano negli uffici. E sicuramente una cosa del genere è stata fatta, ce lo hanno segnalato, anzi vi invito a fare segnalazioni di questo genere anche molte aziende, e ricordiamo segnalano che già mesi fa altre amministrazioni pubbliche avevano vietato non solo Facebook ma anche altri servizi. A marzo 2009, quindi un anno e mezzo fa, è intervenuta forse tra le prime pubbliche amministrazioni la Regione Veneto, e nel maggio dello stesso anno era seguito il Friuli Venezia Giulia. Intanto però tutti i grandi protagonisti della rete sono attenti alle evoluzioni social. Quello che abbiamo appena detto dimostra che la gente è fortemente interessata a questi servizi. Allora, mentre la nuova versione di Skype per Windows si integra con Facebook, in settimana è stata annunciata una interessante collaborazione tra Facebook e Microsoft. Il piano prevede che i risultati del motore di ricerca Bing, il motore di ricerca della Microsoft, vengano integrati con i contatti di Facebook. In questo modo sarà possibile, accedendo naturalmente con le proprie credenziali, sapere per esempio se un amico ha cenato in un tal ristorante, ha comprato in un certo negozio o ha visto un film, ha ascoltato una certa canzone o utilizzato un certo prodotto, insomma. Ricordiamo che nel 2007 Microsoft ha investito 240 milioni di dollari in Facebook, quindi la collaborazione nasce anche sulla base di questo investimento. Forse però, anzi togliamo il forse, per Microsoft l'annuncio più importante della settimana è stato fatto lunedì. We think very much that after today you will agree with us that with Windows Phone we really have built with our partners a different kind of a phone. Un diverso tipo di telefono, dice Steve Ballmer, amministratore delegato di Microsoft, presentando il nuovo sistema operativo che sarà disponibile dal 21 ottobre su smartphone prodotti da quattro produttori, ovvero Samsung, LG, HTC e solo per gli Stati Uniti Dell. La differenza, dice Ballmer, di Windows Phone 7 non è nel cosa è possibile fare con il telefono, ma come lo si fa. In a sense you could say the differences in the Windows phone are as much about not just what you're going to do with the phone, but how you're going to do it. Sulle caratteristiche principali del nuovo sistema operativo abbiamo sentito Luca Callegari, che è responsabile della divisione mobile di Microsoft Italia. Okay, sicuramente un'interfaccia user-friendly, un'interfaccia che ha studiato il consumatore nella sua interezza e che viene rappresentata da delle tessere dinamiche che al proprio interno ti permettono di avere un aggregato di contenuti aggiornabili dal consumatore stesso, sempre attivi e aggiornati dall'esterno in tempo reale. Per farti un esempio, nel momento in cui ho ad esempio queste tessere dinamiche dei contatti e ho il mio account di Facebook, di Hotmail, di Outlook all'interno della mia tessera dinamica, quando tu posti il tuo qualsiasi tipo di video, qualsiasi tipo di informazione, immediatamente c'è un pop-up sulla mia tessera dinamica che mi avvisa dello stato del mio interlocutore che si è reso visibile e che ha cambiato il proprio stato. Quindi in ogni momento io interagisco con i miei contenuti esterni. Questo è un telefono che voi avete pensato soprattutto per il mondo consumer o anche per il business? Allora, ha sicuramente un orientamento maggiormente consumer, ma non perde il DNA di Microsoft, che è sicuramente il mondo business. Infatti l'Office 2010, la suite di Office, la tessera dinamica di Office all'interno del prodotto stesso è la massima evoluzione del pacchetto Office, quindi PowerPoint editabile, Excel, Word, OneNote e soprattutto la suite di SharePoint. Quindi per la prima volta tu dall'azienda puoi lavorare in contemporanea con me, che sono sul telefono, su una PPT, io posso scaricarmela in tempo reale e andare poi a fare una presentazione con la PPT cambiata, dalla presentazione cambiata da te che eri in azienda. Quindi l'evoluzione massima della produttività business. Voi avete lanciato anche Zoom, che per il mercato americano è un nome noto, invece per l'Italia è un nome sconosciuto. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un portale online di contenuti musicali e video che a oggi avrà avuto una grossissima penetrazione sul mercato americano. Sul mercato italiano si è aspettato di popolarlo, si è aspettato di avere un dispositivo mobile integrato con tutti i contenuti e quindi il tasso di penetrazione di Zoom sarà di pari passo a quello del telefono nelle mani del cittadino italiano. Questo è un portale di applicazioni come lo conosciamo in altri ambiti o musica? È un portale di musica, video e applicazioni. Quella di Zoom sicuramente è una novità interessante, potete visitare il sito www.zune.com e vi reindirizza sulla parte italiana. Ricordiamo che non c'è solo il sito internet, ma anzi soprattutto Zoom è un'applicazione da installare sul computer, così come forse è stata una delle prime ad avere successo sul mercato, così come dicevo iTunes di Apple. Ricordiamo che Microsoft ha annunciato anche una lunga serie di partner per tutti i mercati dove uscirà la prossima settimana Windows Phone 7, quindi anche l'Italia, partner che hanno realizzato applicazioni e servizi per questo sistema operativo, tra questi ricordiamo anche il Sole 24 Ore. Molto positivi sono stati i giudizi degli esperti sull'applicazione Rai.tv disponibile solo per Windows Phone e che consente la visione in streaming e anche in diretta dei canali televisivi della Rai. Interessanti sono le prospettive del mercato, come ha spiegato Pietro Scott Iovane, che è amministratore delegato di Microsoft Italia. Allora, intanto in Italia ci aspettiamo che ci siano circa 21 milioni di unità di dispositivi mobili, chiamiamoli basic smartphone, dove ci focalizzeremo sulla componente smartphone oggi con il lancio di Windows Phone 7, e di questi circa 20% sono appunto smartphone, quindi circa 4 milioni, e la residua parte, circa 17 milioni, sono quelli che vengono percepiti come telefoni che servono puramente per chiamare. Ma se la guardiamo in termini di valore, oggi come oggi questi smartphone non rappresentano il 20% delle unità e nel valore, ma rappresentano circa il doppio in termini di valore, circa il 45%. E allora, quando guardiamo a questo mercato, cerchiamo di individuare quali sono i trend, cioè che il mondo degli smartphone sicuramente si allargherà, e dove nel 2014 arriverà il dispositivo smartphone in termini di penetrazione di mercato. Noi ci aspettiamo che nei prossimi 3 anni, e quindi da oggi fino al 2014, il numero di smartphone passi da 4 milioni a circa 14 milioni, che per semplificare, come dire, il numero di telefonini che oggi non sono smartphone, che è la maggior parte, diventerà quantitativamente invece il numero di smartphone che ciascuno di noi vedrà nel mercato italiano. Ed ecco gli obiettivi di Microsoft per i prossimi mesi. Windows Phone 7 deve sicuramente riuscire ad avvicinarsi ed essere top of mind per quanto riguarda tutti gli utenti che da adesso in poi penseranno all'acquisto di un telefonino. Ricordiamo che uno smartphone tendenzialmente ha una vita di circa 1 anno e mezzo, 18 mesi. Quindi noi guardiamo i prossimi 18 mesi esattamente in quest'ottica di essere top of mind per ciascuno degli utenti. Tornando alla visione del 2014, quando ci saranno circa 14 milioni di smartphone immessi nel mercato, noi ci giocheremo la partita insieme agli altri due player. Chiunque questi due altri player saranno a quella data, noi sicuramente saremo fra i primi tre. Questa era la voce di Pietro Scott Iovane, che è amministratore delegato dei Microsoft Italia. Beh, sicuramente obiettivi piuttosto ambiziosi. Quando si dice top of mind, significa che quando un consumatore pensa di comprare uno smartphone, deve, almeno nelle intenzioni dell'azienda, dovrebbe avere in mente tra le varie opzioni anche quella di Windows Phone 7, cosa che forse non accade oggi, perché sono altri produttori, brand che uno ha in mente quando entra in un negozio e cerca di comprare uno smartphone. Ma questi obiettivi possono essere compatibili con il mercato così come lo conosciamo, con le sue dinamiche, con le complessità che sono nate negli ultimi tempi, con l'arrivo di nuovi protagonisti che hanno sicuramente cambiato un po' le dinamiche di questo settore. Un settore molto ricco. Allora, tra poco ci faremo aiutare da Carolina Milanesi, che è analista di Gartner, che ci aiuta sempre a capirne di più in questo complesso mondo della telefonia mobile, che gli inglesi chiamano mobile industry. Questo è 2024, ci fermiamo per un minuto. Non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica 2024 e radio24.it. A tra poco. Seguiteci ogni settimana il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 16 e le 17, ma naturalmente ci trovate anche online. Al termine della nostra puntata sarà disponibile il file MP3 della nostra trasmissione e come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio, potrei dire l'ottimo servizio podcast di Radio 24. In questo modo, abbonandovi a questo servizio gratuitamente, avrete la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Trovate tutte le informazioni, tutti i link del caso sul nostro sito internet www.radio24.it alla voce podcast. Se volete altre informazioni sul nostro programma, invece entrate nella sezione programmi e trovate 2024. Stiamo parlando del nuovo Windows Phone 7, che è un sistema operativo, ma naturalmente sarà anche un telefono a partire dal 21 di ottobre, presentato e prodotto da Samsung, LG, HTC e, dicevo, negli Stati Uniti anche da Dell, che è recentemente entrata in questo mercato. Mercato molto ricco, abbiamo sentito poco fa i numeri da Pietro Scotti Iovane, amministratore delegato di Microsoft Italia. Dai 4 milioni, e parliamo solo del mercato italiano, 4 milioni di smartphone presenti oggi circa, ci si attende che ci sia una evoluzione nei prossimi 3-4 anni fino a 14 milioni. E quindi sicuramente un mercato dove è importante esserci, e tra l'altro che creerà una esplosione di servizi che poi verranno utilizzati da questi smartphone. Ma che ruolo potrà avere Microsoft in tutto ciò? Per capirne di più ci facciamo aiutare da Carolina Milanesi, che guida la divisione di Gartner dedicata alla mobilità da Londra, quindi bersagliata, visto che le ricerche sono a livello mondiale, bersagliata non solo dalle domande dei giornalisti italiani ma anche da quelle di altri paesi europei, dall'Asia e dagli Stati Uniti, quindi ringraziamo sempre per la disponibilità. Bentornata 2024. Grazie. Partiamo proprio da questa considerazione, cioè del tentare di essere sul podio in un mercato molto competitivo, molto complesso, insomma con dinamiche estremamente variegate. La vostra previsione sicuramente non combacia con le aspettative di Microsoft. No, li vediamo nei top 5, ma come fanalino di coda dei top 5. Alla fine, se guardiamo allo sviluppo dei sistemi operativi, e siamo tutti d'accordo, credo, che Symbian da un punto di vista di prezzo avrà comunque una quota di mercato ragionevole, perché comunque arriverà a dei prezzi così bassi che altre piattaforme non riusciranno a raggiungere. E poi abbiamo un Android che sembra che faccia tutto giusto al momento, e quindi arriviamo a queste due piattaforme che hanno il 60% del mercato. Non si può pensare che l'altro 40% del mercato, che vede Microsoft, che vede Apple e che vede Research in Motion, tutti siano un numero 3, qualcuno dovrà pur diventare il numero 4 e il numero 5, e per adesso rimaniamo un attimino, diciamo, scettici che tutte le cose che deve fare Microsoft per far funzionare questa piattaforma, che come design è sicuramente un miglioramento incredibile rispetto alla versione 6.1 e 6.5, ma ci sono molte altre cose al di là della piattaforma stessa che devono risuonare con i consumatori. Il nome, la brand. Microsoft nella parte del telefono è sempre stato visto come un discorso di enterprise, no? Non un discorso di consumatore. Sì, invece, tra l'altro, da sottolineare questo aspetto, perché Microsoft invece in questo caso punta molto sul consumatore, quasi forse per dirci, ma forse non c'era bisogno di Microsoft, che il grosso del mercato, i giochi, si fanno dalla parte consumer, giusto? Assolutamente, è ancora l'80% del mercato mobile, ma non solo questo, è anche il grosso impatto che adesso i devices che sono stati creati per il consumatore hanno sull'enterprise. Guardiamo all'iPhone, è un classico caso, no? Che è stato creato per il consumatore e adesso sta entrando nella parte business. Questa si chiama consumerization, sbaglio? No, perfetto. Bella parola, insomma, che ci fa capire che così affascinanti sono le cose per il consumatore che poi uno le vuole anche sul posto di lavoro. Esattamente. Che cos'altro dovrebbe fare? Diciamo, quali sono gli altri ingredienti che Microsoft dovrebbe mettere al posto giusto? Gli altri ingredienti sono, da una parte, è tutto il discorso delle applicazioni, e su questo hanno in programma di spendere parecchi soldi e anche molto, così, molto focus per cercare di attrarre gli sviluppatori, e quindi forse sotto questo senso hanno una marcia in più rispetto a un Google che fino adesso sì, vedono le applicazioni, ma magari non è così attivo da un punto di vista di marketing, per esempio. L'altra cosa che devono fare è cercare di bilanciare la necessità di avere una piattaforma che non è troppo frammentata, alla necessità dei venditori di potersi differenziare uno con l'altro. Al momento, da un punto di vista di UI, la differenziazione è minima, quindi prendere un Sony Ericsson piuttosto che un Samsung, piuttosto che un HTC, alla fine tu dovresti avere un'esperienza sola. Dal punto di vista di hardware, c'è limitazione su quante megapixel puoi avere per la camera, per la fotocamera, piuttosto che quanto grande può essere lo schermo. Io come venditore come faccio a differenziarmi? Questo sicuramente è un problema che abbiamo visto e continuiamo a vedere anche nella parte Android, se non sbaglio. Sì, assolutamente. L'unica cosa è che con Android, dal punto di vista di hardware, c'è un attimino più di flessibilità, e anche a livello di user interface, se vuoi, come ha fatto per esempio Motorola, ti puoi creare una UI tua che metti al di sopra di Android. Sì, quindi un'interfaccia diversa che personalizza. Esatto, una flessibilità un attimino maggiore. Le previsioni che voi fate nell'immediato, perché quelle che abbiamo che tu hai citato sono al 2014, quindi nell'arco dei prossimi 3-4 anni, invece per il prossimo anno che cosa pensate della gamma Windows Phone? A livello di posizionamento siamo ancora nella stessa posizione, però a livello di vendite vediamo quasi un raddoppio delle vendite rispetto a quest'anno. Senz'altro nel breve termine la nuova piattaforma ha un effetto positivo. Molto bene, io ringrazio Carolina Milanesi anche per questa occasione, per essere stata con noi, per averci dato qualche spunto in più per capire come va questo mercato, che rimane, se non sbaglio, uno dei più ricchi, parlando di tecnologia, uno dei più ricchi in assoluto, con numeri incredibili. Sì, sia a livello di tecnologia che anche a livello di margini per i produttori. Molto bene, grazie, a presto e buon lavoro. Arrivederci. Adesso cambiamo argomento, parliamo di automobili e in modo particolare di automobili automatiche, cioè auto che senza bisogno che ci sia una persona a bordo, che schiacci l'acceleratore, che giri il volante, metta la freccia, metta le marce e piloti l'automobile, viaggiano autonomamente. Fantascienza? Forse no. Avrete sicuramente, alcuni di voi avranno sicuramente letto o visto le automobili di Google che hanno percorso decine, centinaia se non migliaia di chilometri sulle strade della California. Di auto che guidano autonomamente si parla naturalmente da molto tempo, però ci fa piacere sottolineare e sottolinearvi che in questo caso in Italia esiste un laboratorio che da parecchi anni, da molti anni, studia, fa ricerca proprio in questo settore e ha già messo sulla strada automobili automatiche che guidano appunto grazie a dei visori, a delle videocamere, a computer che gestiscono tutto il veicolo. Saluto il professor Alberto Broggi, che è direttore del VisLab, il laboratorio di visione dell'Università di Parma. Professore, bentornato a 2024. Buongiorno, grazie. Voi siete anche da circa un anno uno spin-off, quindi da questa attività di ricerca è nata e sta nascendo anche, speriamo, una società che si occupa della commercializzazione di quello che la ricerca italiana ha prodotto e produrrà. Beh, diciamo subito una cosa, questi veicoli automatici sono automatici in tutto e per tutto, quindi mollati per la strada riescono a guidare come farebbe un automobilista, o speriamo addirittura meglio di un automobilista? Beh, per ora i nostri veicoli hanno bisogno di qualche cos'altro. Ad esempio abbiamo sviluppato tante funzioni, sottofunzioni, ad esempio dicevo una per la localizzazione del veicolo davanti e l'inseguimento del veicolo davanti, quindi è necessario avere qualcuno davanti da seguire, oppure la localizzazione delle linee di demarcazione della carreggiata, e quindi segue le linee di demarcazione della carreggiata, quindi sta in corsia e effettua le curve seguendo la corsia, oppure tanti altri sottosistemi che poi adesso abbiamo messo insieme e tutti insieme, non abbiamo ancora terminato il progetto, dovrebbero arrivare appunto a quello che diceva, di riuscire a fare in modo che il veicolo automaticamente parta da una posizione e arrivi a destinazione senza nessun altro intervento umano. E però questo è l'obiettivo finale del nostro progetto. Le faccio una domanda un po' provocatoria. Quello che sta facendo Google noi lo stiamo facendo da molto tempo, oppure Google in poco tempo ci ha superato o vi ha superato? Ma Google è da molto tempo che sta lavorando su questo, sono svariati anni e sono su questo progetto, e loro hanno un approccio leggermente diverso dal nostro. Loro utilizzano le loro mappe molto precise, molto dettagliate, sono mappe tridimensionali di tutta la zona vicino a San Francisco, quindi hanno prima mappato il territorio in un modo molto dettagliato e poi ci navigano dentro con i loro veicoli, utilizzando anche sensori molto performanti. Devo dire che i sensori che stanno utilizzando sono, penso, i sensori migliori che si possano trovare come tecnologia, perché riescono a vedere oggetti molto piccoli a grande distanza, riescono ad avere quindi una visione molto precisa dell'ambiente, quindi fanno una mappatura dell'ambiente prima e poi ci navigano dentro. E nel nostro caso invece abbiamo scelto un approccio diverso, non abbiamo mappe, poi nell'esperimento che stiamo portando a termine adesso stiamo attraversando zone in cui le mappe addirittura non esistono, e poi abbiamo scelto sensori di basso costo, in modo tale che un giorno questi sensori potranno essere integrati effettivamente su un veicolo di serie, su un veicolo normale, e anche, oltre ad avere un basso costo, questi sensori hanno anche la facilità di integrazione, cioè possiamo inserire questi sensori facilmente in uno chassis di un veicolo senza deturparne l'aspetto, cosa che invece Google ha preferito non fare. Ad esempio, se vedete le macchine di Google, hanno sul tetto un grosso sensore di dimensione più o meno di altezza un metro e largo una quarantina di centimetri, che gira su se stesso, quindi è sicuramente una cosa abbastanza invasiva. Certo. Allora, professore, rimanga con noi, ci fermiamo per un minuto, questo è 2024, siete su Radio 24, torneremo a parlare di questo argomento tra poco e spiegheremo alcune cose molto molto interessanti. Stiamo parlando di veicoli automatici con il professor Broggi di Parma, del VisLab, il laboratorio di visione di Parma. Professore, poco fa parlavamo di sensori costosi o poco costosi, ci può dare un'idea, almeno un range, giusto per capire? Sì, sensori che costano molto vuol dire sui $20,000 e basso costo qualche euro. Quindi diciamo integrare una roba da $20,000 o di qualche euro è molto diverso. Quindi mi vuol dire che il vostro veicolo piazzato, paracadutato, diciamo così, in qualsiasi area del mondo va avanti. Sì, per ora. Nel caso di Google, o comunque nel caso insomma di altri sistemi, o esiste una mappa molto dettagliata oppure ci si ferma. Certo, beh, però comunque Google ha anche dimostrato che riesce a fare mappe per tutto il mondo, quindi effettivamente potrebbe essere possibile, plausibile, che un giorno noi abbiamo mappe così dettagliate di tutto il mondo da poter avere i loro veicoli che girano tranquillamente. Certo. Quindi è sicuramente plausibile. Le faccio una domanda che può sembrare banale, ma per che motivo dovremmo aver bisogno di macchine automatiche che vanno da sole? Certo, uno potrebbe dire monto in cima l'auto, mi metto a leggere il giornale e arrivo al lavoro, ma certo. Quali sono gli altri motivi? Gli altri motivi sono semplicissimi. Il primo è questo: 93% degli incidenti stradali è dovuto a cause umane, quindi distrazione, imperizia, o guida sotto l'effetto di alcol, farmaci, droghe, quindi sono cause umane. Se noi riusciamo a dare intelligenza al veicolo, probabilmente molti di questi incidenti si potrebbero evitare, oppure si potrebbero diminuire le conseguenze dell'incidente, magari avere un tamponamento a bassa velocità al posto di un incidente ad alta velocità. Sono 40.000 i morti all'anno sulle strade europee e la comunità europea sta investendo tantissimo su questo, cercare di diminuire gli incidenti e aumentare la sicurezza stradale, e questo è un primissimo vantaggio. E poi vabbè, ce ne sono tanti altri, come ad esempio se noi avessimo un sistema capace di guidare velocemente e tenere i veicoli a bassa distanza l'uno dall'altro, probabilmente ci sarebbe un incremento dell'efficienza del carburante, perché appunto riusciamo a movimentare un treno di veicoli tutti alla stessa velocità, tutti a velocità alta, vicini uno con l'altro. e poi ad esempio dare mobilità a chi mobilità non ha. Insomma, di vantaggi ce ne sono tantissimi. Addirittura potremmo pensare a un diverso modo di mobilità, perché finora abbiamo sempre parlato di macchina e la macchina è vado dove voglio, quando voglio, è mobilità personale, oppure treno, autobus, quindi trasporto pubblico, però ho delle tabelle di marcia, ho delle località predefinite. Invece in questo modo, con questi sistemi, potremmo fare un mix e ottenere il meglio dall'uno e dall'altro, e quindi andare dove voglio, quando voglio, macchina, però senza avere il bisogno di guidarla, e quindi in tutta sicurezza come il trasporto pubblico. Insomma, anche addirittura il veicolo potrebbe comportarsi diversamente, macchina in certi momenti e ad esempio agganciarsi a un treno, quindi vagone, in certi altri momenti. Certo, potrebbero esserci anche degli sciami di auto pubbliche. Che... Esattamente, infatti questo è una mobilità diversa, nuova, bisogna tutto ancora studiarla, perché potrebbe essere che io utilizzo la mia macchina e mi porta al lavoro, scendo e poi la macchina se ne va a parcheggiare da sola, oppure è disponibile per qualcun altro per fare qualche altro tratto di strada, poi quando anche quell'altro è terminato la macchina è disponibile per un altro, quindi è un car sharing molto evoluto, in cui il veicolo è un taxista praticamente, il taxista che è sempre disponibile per tutti. Senta, quanto distante è questo scenario, questo mondo? Perché a me tendenzialmente piace parlare del presente, della tecnologia o imminente, diciamo così, non quella che arriverà fra 20-30 anni. Sì, non è molto lontano, non è molto lontano, e a dire la verità ci sono applicazioni di questa tecnologia che sono molto più vicine di quanto uno pensi. E ad esempio una di queste applicazioni è la movimentazione dei veicoli in ambito agricolo, quindi avere un trattore che si muove per 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza nessuno a bordo e che effettua tutte le manovre sul campo, addirittura per campi di dimensioni sconfinate. Ci sono già? Questo non c'è ancora, c'è qualche cosa, ma non c'è ancora completamente automatico, e ad esempio su questo stiamo già lavorando. Perché sono sicuro che è una delle prime applicazioni che vedranno la luce, e anche perché l'ambiente non è poi così difficile, così complesso come ad esempio un ambiente urbano dove ci sono biciclette, pedoni, segnali stradali o semafori da considerare. Lì è un ambiente un pochino più semplice, diciamo più complesso in certi altri, sotto certi altri aspetti, però è più strutturato, è più semplice da gestire, meno dinamico. E poi l'ambiente stradale invece, ok, in questo caso potremmo avere applicazioni di guida autonoma probabilmente tra 5, 8, Google dice 8 anni, in ambiente, io penso in ambiente più strutturato tipo ambiente autostradale. L'ambiente autostradale è molto più semplice dell'ambiente urbano, perché in autostrada tutti vanno nella stessa direzione, la velocità è abbastanza costante, non ci sono intersezioni, non ci sono incroci, non ci sono semafori, quindi l'ambiente è molto semplice. Sì, quindi diciamo, potremmo immaginare un cruise control, che quindi è questo sistema che mantiene stabile la velocità, più evoluto. Più evoluto, ma a dire la verità c'è già, perché qualche casa automobilistica ha già sviluppato sistemi che sia tengono la velocità costante o la diminuiscono se c'è davanti un altro veicolo che va più lento, e contemporaneamente mantengono il veicolo sulla carreggiata seguendo le linee. Quindi in sostanza è già un sistema abbastanza automatico, il livello di automatismo è abbastanza alto, però queste case automobilistiche contemporaneamente richiedono che il veicolo sia comunque monitorato dal guidatore, quindi ci sia il guidatore a bordo. Sì, chiaro. Senta, abbiamo detto che il Vislab è diventato anche uno spin-off, quindi esiste, immagino, un mercato di riferimento e quindi un potenziale business. È vero questo? E soprattutto, quali sono i vostri clienti? Ma il business per ora non c'è tantissimo, lo stiamo cercando di sviluppare, siamo tra i pochi che stanno lavorando in questo settore, siamo un po' all'inizio e stiamo cercando di capire cosa riusciamo a fare. E, tra i vari possibili compratori ci sono per adesso delle aziende che lavorano nell'ambito automobilistico, e poi anche aziende di tipo veicolistico, qualunque tipo di veicolo. Noi stiamo lavorando con aziende che fanno veicoli anche grossi, veicoli per lo spostamento terra, veicoli per i lavori stradali, quindi veicoli di tutte le dimensioni. Senta, a proposito di finanziamenti, perché quando si parla di settori di ricerca, il vostro è un settore che mi sembra di capire che è partito 15 o forse più anni fa, il problema dei finanziamenti è sempre forse quello che viene citato per primo. Come vi vanno le cose a Parma? Ma a dire la verità, questo è un solito problema. Noi purtroppo da, diciamo, fonti istituzionali non abbiamo mai ricevuto nulla, dal punto di vista, diciamo, dall'Italia non siamo mai riusciti a ottenere finanziamenti. I finanziamenti che abbiamo, che ci hanno portato a diventare anche un gruppo grosso, siamo una ventina di persone ormai, e arrivano tutti da aziende straniere, aziende sia americane sia asiatiche, abbiamo grossi rapporti con la Corea, dicevo Stati Uniti, anche Europa. E poi fortunatamente ho vinto un grosso grant dalla comunità europea, appunto, che ci ha consentito di andare avanti su questi studi molto avanzati, diciamo più avanzati di quanto non sia necessario adesso all'azienda automobilistica o all'azienda veicolistica. E ad esempio adesso stiamo organizzando un viaggio, anzi ormai siamo quasi al termine di questo viaggio, per un test esaustivo dei nostri sistemi. Siamo partiti dall'Italia nel luglio scorso e adesso stiamo per raggiungere Shanghai, tra un paio di settimane dovremmo raggiungere Shanghai con dei veicoli completamente automatici, e abbiamo percorso, quindi percorreremo quasi un 15.000 chilometri in modalità automatica per la prima volta al mondo con questi veicoli, e quindi abbiamo attraversato paesi dell'est Europa, la Russia, la Siberia, il Kazakistan. Adesso questi veicoli sono in Cina e stanno per arrivare a Shanghai, e questo per noi è un test assolutamente estremo dei nostri sistemi, cosa che nessuno ha mai fatto, e per noi è una valenza scientifica importantissima, perché in questo modo riusciamo a vedere se i nostri sistemi veramente funzionano o dove non funzionano, in modo tale che se ci rendiamo conto che il sistema non funziona, quando arriviamo a casa e quando torniamo indietro possiamo ad esempio modificarlo o migliorarlo. E per fare questo esperimento chiaramente servono un sacco di soldi. Abbiamo provato a ottenere qualche finanziamento dal punto istituzionale, però ho fatto domanda nel 2007 per questi finanziamenti e sto ancora aspettando la risposta. Da quale ufficio? Beh, dal Ministero, il Ministero italiano, ma non solo questo. Anche, ricerca, Ministero della Ricerca. Sì, ad esempio abbiamo fatto anche domanda per far partire lo spin-off di finanziamenti, perché adesso si parla molto di investire in queste società ad alto contenuto di innovazione, tecnologia come la nostra, però fortunatamente non è stato accettato. Misteri della nostra Italia, e comunque è lodevole che, se non altro, lei non è andato all'estero, ma sono i finanziamenti che arrivano a Parma, e questo sicuramente fa... Sì, diciamo che questo è un vantaggio grosso, che siamo riusciti ad attirare finanziamenti, però diciamo che il corpo è qua, ma il cervello è fuggito, perché lavorando con l'estero tutti i nostri brevetti, tutte le nostre, diciamo pure, invenzioni, i nostri sistemi se ne vanno poi all'estero, quindi diminuiscono la competitività italiana. Molto chiaro. Professore, io la ringrazio per questa chiacchierata, sicuramente in bocca al lupo per i vostri veicoli. Che cosa sono? Automobili, camion o cose strane? Questi sono dei veicoli piccoli, sono dei porter piaggio, elettrici addirittura, quindi abbiamo cercato di fare una sfida all'interno della sfida, cioè sono veicoli elettrici che si muovono in totale autonomia, quindi senza il guidatore e senza a questo punto utilizzare una goccia di benzina o, diciamo, di carburante tradizionale, e dovrebbero raggiungere tra una quindicina di giorni, il 28 ottobre, Shanghai, dopo 15.000 chilometri di guida automatica, 3 mesi di guida automatica e 3 mesi di test, e appunto il 28 ottobre dovrebbe esserci il presidente napolitano all'Expo di Shanghai che ci accoglie, insomma, e faremo una qualche celebrazione tutti insieme. Lo dica anche a lui che dall'Italia non arrivano finanziamenti. Professore, la ringrazio, a presto, buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. E così concludiamo questa puntata di 2024. Torniamo la prossima settimana, sempre sabato, a partire dalle 16. Come sempre, grazie per la vostra attenzione e grazie anche ad Anita Panizza in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica 2024, quindi 2024@radio24.it. Tra poco sarà disponibile online sul nostro sito internet, anche attraverso il servizio podcast, il file MP3 della nostra trasmissione. Vi ricordo che la prossima settimana, mercoledì, giovedì e venerdì, venerdì a Milano ci sarà SMAO, che seguiremo anche attraverso trasmissioni speciali tutte le sere alle 22 su Radio 24, quindi con interviste e approfondimenti dedicati al Salone della Tecnologia a Milano. Ne parleremo anche nella prossima puntata. È tutto, io sono Enrico Pagliarini, ora un buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.